Aha. La CIA, la PIA, la PIA, la PIA, nella pista, pista, pista. Mocca tecla, caparezza, quello che tu chiami pop, per me monnezza. Se fare l'MC significa fare il muratore che edifica la rima calligrafica stilosa quanto statica, pratica praticamente assente di teoria, non è storia mia, ebbene sì, non sono un MC ma così sia. Monnezza che singhiozza, questo faccio e non hip hop, non propriamente hip hop, ciò che propino più che un hit è un flop. Hop hop hop, sono un sommarello, tenete a parte più che a mente quello che dico perché non è bello. Il cervello mi rivela che non siamo eroi noi, che non sempre il pantalone fa il b-boy, pensala come vuoi, fai ciò che è giusto per te perché a me di te frega poco, c'è chi prende le cose sul serio, io le prendo per gioco, do fuoco a chi fa quattro passi e mostrassi da poker. O qui siamo tutti maestri o qui siamo tutti sucker. Sai, gli MC sono diversi, che vuoi farci? Se in America vogliono uscire dal ghetto, in Italia vogliono entrarci. Quello che tu chiami pop per me monnezza, quello che tu chiami rap per me monnezza, quello che tu chiami hardcore, East Coast, West Coast, che tu ci credo o no, per me monnezza, quello che tu chiami pop per me monnezza, quello che tu chiami rap per me monnezza, quello che tu chiami hardcore, East Coast, West Coast, che tu ci credo o no, per me monnezza. La casa discografica diventa più dinamica, in pratica ciò che ci limita è il b-boy che giudica ciò che gli capita tra le mannacce. Sul palco si parla d'amore, da pubblico parolacce, per non temere minacce accendi le micce dell'odio. Se sali sul podio e tutto fila liscio come l'olio, spoglio d'ogni contenuto, dedicati alla forma della comunità di chi ci sta, questa è la norma. Mo sforna pezzi grezzi senza mezzi termini, fammi a pezzi con i tuoi razzi, prendimi scazzi su scazzi e la scena, c'è chi non è più vena, smena, c'è chi ha istruito sta gente, è la stessa che lo allontana. Frana, son Montefrana, e se sta in piedi è per la grana, non certo per chi nel concerto sbrana. Qui c'è chi digiuna fino a che la luna sarà bruna, se questa è la realtà per me non c'è realtà alcuna. Quello che tu chiami pop per me monnezza, quello che tu chiami rap per me monnezza, quello che tu chiami hardcore, East Coast, West Coast, che tu ci credo o no, per me monnezza, quello che tu chiami pop per me monnezza, quello che tu chiami rap per me monnezza, quello che tu chiami hardcore, East Coast, West Coast, che tu ci credo o no, per me monnezza. Quattro elementi presenti, in elementi esigenti di chi porta avanti sta cultura urlata ai quattro venti, spesso da certi ignoranti, santi numi. Ma che pena mi fate quando parlate fieri, vestiti di firme, infettati dal germe dei paninari, con i vari slang, ben vengano, ma non lamentarti, non è che non riesco a capirti, sai, è che non voglio ascoltarti, punto e basta, questa è la mia ringa, rap o rasta, basta che spinga, oh oh, oh, la dura, oh, la dura minga, ma zinga del palco, senti, sto robottino, mi faccio le mie storie e me ne sto buono buonino, fino a che finalmente la gente avrà nella mente monnezza. Cosciente che mi faccio il culo eppure qualcuno disprezza miezza via, non è la vita mia e non me la invento, non me ne importa più di tanto se la mia roba è fuori o dentro, provo comunque a farmi pezzi miei, tu fatti i tuoi micro d'avorio e se lo vuoi sarò il tuo capro espiatorio. Quello che tu chiami pop per me monnezza, quello che tu chiami rap per me monnezza, quello che tu chiami hardcore, East Coast, West Coast, che tu ci credo o no, per me monnezza, quello che tu chiami pop per me monnezza, quello che tu chiami rap per me monnezza, quello che tu chiami hardcore, East Coast, West Coast, che tu ci credo o no, per me monnezza, quello che tu chiami pop per me monnezza, quello che tu chiami rap per me monnezza, quello che tu chiami hardcore, East Coast, West Coast, che tu ci credo o no, per me monnezza, quello che tu chiami pop per me monnezza, quello che tu chiami rap per me monnezza, quello che tu chiami hardcore, East Coast, West Coast, che tu ci credo o no, per me monnezza.